Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati e benvenuti, Luca Tremolada al microfono. Siamo in collegamento con Alessandro Longo. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro Alessandro Longo, ricordiamolo, giornalista freelance, scrive sulle pagine di Nova, scrive sul Sole 24 Ore, scrive su tantissime riviste, è uno dei principali esperti di telecomunicazioni. Troppo buono? Sì, come al solito, grazie Luca. Va bene, perché oggi parleremo, insomma, dedichiamo la puntata a capire un po' la difficile relazione, il difficile rapporto tra telefonini e internet, ma prima di entrare nel vivo della puntata, sentiamo le news. Oltre 10.000 ricette per salvare il mondo. A un mese dalla partenza, Evoke, il videogioco online della Banca Mondiale, fa il pieno di giocatori. Chi si iscrive a www.urgentvoke.com deve ogni settimana fornire soluzioni ai problemi del genere umano, dalla povertà al clima. La missione in corso è trovare una moneta per fronteggiare il fatto che 3 miliardi di persone vivono con meno di 2 dollari al giorno. Ancora videogame. Google e Nintendo per la prima volta insieme. La strana coppia dell'intrattenimento alla fine del mese porterà sulle console Wii un gioco chiamato Ando Kensaku, ovvero le ricerche del signor Ando. Si tratta di una sorta di quiz show dove i concorrenti saranno chiamati a indovinare le parole più ricercate in rete. Niente quindi di estremamente innovativo. Torino è la più assediata quest'anno dalle polveri sottili PM10. Seguono Frosinone e Padova. A lanciare l'allarme è il treno verde di Lega Ambiente e Ferrovie dello Stato, con la collaborazione di Telecom Italia. Censimento internet. Nel mese di febbraio, 22,9 milioni di persone hanno navigato in rete, con un incremento del 13% su base annua. Il dato emerge dall'ultimo rapporto di AudiWeb. Aumenta anche il numero di utenti nel giorno medio, pari a 11,8 milioni, più 16,9%, ma diminuiscono il tempo trascorso online, 1 ora e 41 minuti, meno 6,7%, e le pagine visitate, 182 a persona, meno 7,1%. Allora, rieccoci in studio. Noi siamo anche in collegamento con Alessandro Bruzzi di SOS Tariffe. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Alessandro. Allora, parliamo di tariffe, parliamo appunto di io ho parlato prima della strana relazione tra internet e telefonia, perché insomma da 2 anni a questa parte, dimmi un po' se sto sbagliando Alessandro, la possibilità di navigare su internet, la rivoluzione di internet all'interno dei cellulari, degli smartphone, ha un po' cambiato non solo la modalità di utilizzare i telefonini, ma anche quello che riguarda le nostre tasche, cioè anche la nostra spesa in traffico telefonico. Sì, esattamente. Sicuramente gli smartphone hanno permesso di navigare in un modo accettabile, quindi si riesce a vedere le pagine del web velocemente. I costi sono assolutamente diminuiti, quindi sì, è possibile navigare in un modo adesso adatto a tutte le tasche. Si parte da 2-3 euro a settimana. E ovviamente però nascono alcuni problemi, come può essere la congestione della rete, che adesso siamo tutti a prendere questo problema. Esatto, insomma, i problemi sono non solo la congestione della rete, ma anche la difficoltà a capire quanto sto spendendo nel momento in cui io vado a vedere un sito in mobilità, magari uso le mappe di Google oppure uso le mappe di un altro operatore. Insomma, si apre un tema abbastanza, non dico drammatico perché sono genovese, però insomma un tema vero per le tasche di chi usa i cellulari. Tutto questo è un po' riassunto nella scheda che ha preparato per noi Alessandro Longo. Sentiamo. L'aver ricevuto un cellulare evoluto ci ha resi felici a Natale. Dopo la prima bolletta dell'operatore lo siamo stati un po' meno. È capitato a molti. Le associazioni dei consumatori sono colme di proteste di utenti che, non si sa come, hanno speso molto più del previsto con il proprio cellulare su internet. Il bello dei nuovi modelli è infatti che permettono di usare applicazioni prima riservate ai computer, da YouTube alla navigazione sulle mappe di Google, all'ascolto di radio e musica via internet. Tutte cose che consumano molto traffico È impensabile usare le applicazioni internet di un cellulare evoluto, un cosiddetto smartphone, senza prima sottoscrivere un'offerta internet di un operatore mobile. E certo, se si rinuncia ad internet, si perde anche il meglio degli smartphone. Ma anche dopo aver attivato un'offerta dati, è facile incorrere in spese impreviste, perché abbiamo sottovalutato i nostri consumi o abbiamo usato applicazioni non coperte dall'offerta, oppure abbiamo sbagliato a configurare il cellulare. Chissà perché è così difficile non sbagliare con le tariffe sui nuovi cellulari. Allora, Alessandro Longo, ma è così difficile? Infatti io ho elencato alcuni dei motivi per cui l'utente si trova la bolletta shock, no? Ho attivato l'offerta sbagliata, magari l'ha attivata su un'altra SIM, capita anche questo. Tra l'altro la domanda che di solito è più complicato rispondere è proprio quella legata alle mappe GPS, cioè quanto mi costa utilizzare il GPS, per cui la possibilità di usare una sorta di navigatore satellitare con la telefonia mobile. Si paga? Non si paga? Bene, allora se io installo le mappe sul cellulare, come permette Nokia, e poi magari anche disabilito le GPS, cioè il GPS assistito è gratuito, pago quando le mappe sono online, come è il caso di Google Maps, e quando utilizzo la rete dell'operatore per rendere più preciso il GPS, anche se in quel caso il costo è limitato. Quindi insomma bisogna essere un po' esperti per non pagare troppo, per non pagare affatto. Un po' più che esperti bisogna essere un po' furbi, nel senso cercare di utilizzare, è più una questione pratica di utilità, da un colpo d'occhio e poi spegnere subito. Beh sì, un errore può far andare via velocemente 5-10 euro, perché se non ho una tariffa e pago a consumo il costo è molto elevato, megabyte. Come sappiamo ormai i siti, anche quelli comuni, sono molto pesanti perché contano su connessioni veloci, e un home page di un sito può anche pesare 500 kilobyte, vedo 2-3 pagine, mi carica tutta la pubblicità, tutte le immagini, pochi megabyte li ottengo in pochi minuti. E tra l'altro poi c'è anche tutto il discorso legato ai social network, per cui legato anche a una sorta di traffico in real time, anche quello è complicatissimo conteggiarlo. Per cui tutto il mondo delle applicazioni, per cui l'applicazione dall'applicazione di Facebook piuttosto che l'applicazione di Twitter. Sì, effettivamente il social network è una delle applicazioni più usate in mobilità. Ora, se lo utilizzo in un modo intelligente, anche lì posso anche pagare pochissimo, perché il traffico effettivo non è elevato. Poi è chiaro che se vedo tutte le immagini dei profili, eccetera, il traffico aumenta. La spesa cambia anche. Sì, le applicazioni è un discorso a parte, perché le applicazioni, come sai, sono molto spesso su flash, il flash ancora sui cellulari non funziona tanto bene. Nel senso che alcuni modelli di cellulari, alcune piattaforme forse è meglio dire, non lo supportano. Sì, l'iPhone, si vanta, l'Apple si vanta di non aver deciso esplicitamente di non supportare il flash sui propri prodotti diversi dai computer, quindi l'iPhone e adesso l'iPad che arriverà ad aprile. Ecco, ma la domanda che volevo fare a Alessandro Bruzzi, cioè dov'è la trasparenza in questo caso? Cioè è piuttosto complicato, l'abbiamo visto, prima le mappe, ora le applicazioni, poi il social network. Alessandro Bruzzi? Sì, mi senti? Sì, la sento, perfetto. La sento. Cioè, la domanda è, dov'è la trasparenza? Cioè, come si fa a capire quanto traffico sta andando via utilizzando un'applicazione piuttosto che utilizzando un social network? È difficile, appunto questo è il problema fondamentale che devono fare i conti gli utenti. Ed è su questo anche che gli operatori insomma cercano anche di portare a casa qualche margine in più. Bisogna stare sicuramente molto attenti alle soglie, perché diverse tariffe hanno diverse soglie, alcune sono settimanali, altre sono giornaliere, altre sono mensili, per cui l'inghippo può essere dietro la porta. Ma è inghippo? Oppure è semplicemente siamo in un momento di passaggio, cioè tutto sommato le applicazioni sono una novità, il prossimo passaggio sarà quello di cercare di lavorare sulle regole. Sì, sicuramente è un momento di passaggio, gli operatori stanno cambiando le tariffe molto spesso, ad esempio TIM le ha aggiornate da poco e ha rivoluzionato tutti i piani, spostando sempre diciamo, l'attenzione verso soluzioni più semplici per gli utenti. Prima molte offerte erano legate al traffico a megabyte incluso, adesso si stanno spostando verso traffico ad ore incluso, perché l'utente così si rende conto, indipendentemente da quanto mi consuma l'applicazione, quanto sto connesso. È molto più semplice tenere sotto controllo questa spesa. Nova Lab 24. Bentornati in studio, Luca Tremolada al microfono, sono in collegamento con Alessandro Longo e con Alessandro Bruzzi di SOS Tariffe. Adesso proviamo ad abbiamo analizzato un po' il traffico, il rapporto dei telefonini con internet, i problemi della spesa, e adesso andiamo un po' a mettere le mani, a ragionare su invece sul VoIP, sulle telefonate via internet, che può sembrare un di cui di questo tema, invece è proprio tutto un altro mondo. Capiamo e lo sentiamo con la scheda di Alessandro Longo. Risparmiare sulle telefonate chiamando via internet dal cellulare. L'idea è buona, chissà a quanti è venuta. Salvo poi accorgersi che non è così facile realizzarla. È vero, i software adatti funzionano su quasi tutti i cellulari. Per esempio Skype, Fring, Nimbuzz e tanti altri, tra cui anche uno italiano di MessageNet. Certo, si risparmia, in particolare sulle chiamate verso numeri fissi di tutto il mondo. La telefonata è persino gratis, se verso altri utenti a loro volta connessi a internet tramite computer o cellulare. Però, per prima cosa, non è possibile risparmiare sulle chiamate verso numeri di cellulari. Secondo, bisogna dotarsi di una tariffa dati che comprende anche le chiamate via internet, il cosiddetto VoIP. È questo il problema. TIM e Vodafone escludono il VoIP dalle tariffe per navigare in internet senza limiti di tempo dal cellulare. Wind lo esclude dalla sua tariffa più generosa. C'è poi l'incognita della qualità della connessione, a volte insufficiente per il VoIP. Il modo più sicuro è quindi chiamare da postazione fissa con il cellulare, sotto rete Wi-Fi. Così funziona, ma forse è ancora un sistema solo per utenti esperti. Allora, Alessandro Longo, tu hai scritto moltissimo sul VoIP, hai seguito dall'inizio l'avvento di Skype. C'è stato un momento in cui dove sembrava che la telefonata via internet fosse la grande rivoluzione. Poi cosa è successo? Beh, su rete fissa la telefonia via internet ormai è, diciamo, cosa comune, comunissima. Solo che la fanno gli operatori tradizionali. Sì, infatti, gli operatori tradizionali lo utilizzano, anche a parte quelli chiaramente specializzati, quindi oramai è tutto su internet, almeno a un certo punto della rete, l'utente magari nemmeno se ne accorge, però sul mobile c'è il grosso problema che gli operatori mobili non gradiscono tanto questa pratica. Anche perché vengono tagliati fuori. Sì, infatti vengono tagliati fuori, almeno in parte, perché l'utente può utilizzare la loro rete dati per fare chiamate voce, però è facile fare il calcolo, no? Un pacchetto da voce, cioè insomma la mia telefonata, pesa molto poco e gli operatori fanno pagare questo molto poco molto di più rispetto invece a un pacchetto dati che contiene cose diverse dalla mia voce, quindi la telefonata su rete mobile, una normalissima telefonata su cellulare, è comunque un dato per l'operatore, solo che costa molto di più all'utente rispetto a un dato qualsiasi altro tipo di dato. Gli operatori vogliono mantenere questa simmetria e l'unico modo è evitare che l'utente faccia da sé. Ecco Alessandro, abbiamo giusto un minuto, io volevo un'ultima battuta da te, cioè il tema mi sembra di capire che poi sia quello di rifugiarsi sul wifi. Da un certo punto di vista, però anche lì ci sono altri costi e altri modelli di telefonini che devono essere predisposti per il wifi, per cui insomma non se ne esce tanto. Beh, diciamo che ancora la situazione non è ottimale per poter chiamare in VoIP su cellulare. Bisogna sempre fare un po' un compromesso da una parte o dall'altra, cioè sia con il wifi sia con la rete mobile tradizionale, perché o l'operatore mobile non me lo permette, o me lo permette però la qualità può essere del tutto deprecabile, quindi insomma alla fine mi arrabbio e faccio la telefonata normale, oppure devo aspettare di trovare una rete wifi. Il consiglio che possiamo dare ai nostri utenti e ascoltatori è che si chiamate sicuramente con il wifi da casa con il cellulare quando vi trovate sotto la rete wifi casalinga. Non chiamate con il cellulare numeri fissi se siete a casa e avete una rete wifi, perché potete risparmiare con il VoIP. Una battuta lampo sul futuro di Skype. Il futuro di Skype è sicuramente sempre più orientato verso il cellulare, tutte le novità del 2010 sono in questo senso, d'accordo con quindi Nokia, diventerà un'applicazione? Come? Sarà sempre di più un'applicazione? Beh, Skype è un'applicazione. Nel senso di un'opzione alle telefonate tradizionali? Beh, l'ipotesi sì, sul cellulare sicuramente, sul fisso sono ormai cresciuti tanto, quindi prevedere ulteriore crescita è difficile, ma sul cellulare Skype proverà a crescere. Qui il grosso problema è che è in ritardo rispetto ai concorrenti che sul cellulare sono arrivati prima, quelli che ho citato nella scheda, quindi non è del tutto, è una grossa incognita la futura crescita di Skype. Da una parte non c'è più tanto da crescere, dall'altra sul cellulare ha dei concorrenti che sono più avanti e hanno adesso dei software migliori. Grazie Alessandro Longo, io ringrazio anche Alessandro Bruzzi, il nostro tempo è scaduto, l'appuntamento è sempre alle 16:30.